cippa di cazzo superiore. Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Che fate? Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali. Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente? Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo. Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene. Guardo il sole che sfuga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare. Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del... Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, questa è la contrattrasmissione contro il carcere che viene onda ogni due mercoledì dalle 15 alle 16, difatti sono le 15 e due minuti primi e qualche secondo. Allora, abbiamo avuto un po' di assenza, sia perché appunto la facciamo ogni due mercoledì, e sia perché il mercoledì scorso che dovevamo essere qui le influenze quelle... come si dice, ricorrenti in questa stagione, ci hanno tenuto lontano. C'è stato anche un problema poi dei trasporti, della metropolitana ferma, chiusa, insomma quei disastri che accompagnano la stagione fredda, insomma, anche. Dunque, i problemi sono tanti, e uno però emerge su tutti in questo periodo, questi giorni che sono a cavallo tra il vecchio anno e l'anno nuovo, e soprattutto in questi giorni, diciamo, del nuovo anno, i giornali di gennaio hanno affrontato molto questo problema. Ne avevamo già parlato le trasmissioni della fine del mese scorso, di dicembre, però sono arrivati talmente tanti articoli, riflessioni, studi analitici rispetto al fatto, a quel fatto che oggi sconvolge i sogni di coloro che hanno le chiavi in mano delle celle, del carcere. Ed è il problema che il carcere, hanno scoperto questa grande verità, il carcere non fa bene alle persone recluse dentro, ma può far diventare dei semplici ladri, piccoli spacciatori, e li può far diventare terroristi. We'll be right back. Allora, 15.08. Dicevamo, il problema che attanaglia tutti coloro che guidano, che organizzano le carceri un po' in tutta Europa, è questo fatto che hanno riscontrato che alcuni ragazzi, alcune persone provenienti da aree disagiate oppure da appunto da metropoli, dalle periferie delle metropoli anche europee, non ha importanza se siano immigrati da poco tempo oppure di seconda, terza o quarta generazione, cioè situazioni degradate socialmente, che vanno in carcere per qualunque motivo, in genere per piccole condanne di 2, 3, 4 anni, e poi ne escono talmente arrabbiati che alcuni di questi è stato riscontrato che fanno quello, poi fanno gli attentati. E quindi è venuto fuori il discorso: il carcere produce i terroristi, e questa è la grande novità che appunto attanaglia i sogni, non fa dormire questi grandi signori che hanno le chiavi. E che cosa hanno fatto allora? Sembra veramente una favola di quelle che si raccontavano tanti anni fa, per favole educative, diciamo, favole che insegnano qualcosa. È successo questo fatto qui, no? Il caso importante di questo ragazzo, ne parla Giovanni Biancone sul Corriere della Sera. Amir si chiama, veniva dalla Siria e voleva tornare in Siria. Era venuto dalla Siria perché fuggiasco, perché lì c'è una guerra ormai da parecchi anni, nella quale talmente gli scontri armati tra diverse fazioni era difficile mantenere, diciamo, la pelle sulle spalle, mantenere la vita, quindi è emigrato. Poi ovviamente era stato preso la nostalgia e voleva tornare. È successo che infatti si è recata a un aeroporto, all'aeroporto di Orio sul Serio al nord, e aveva un documento falso e un telefonino, ed è stato arrestato. Che cosa hanno trovato? Hanno trovato, il documento falso, e questo è l'unico reato, diciamo, che realmente ha fatto, ma non è niente di che. Nel telefonino hanno trovato che c'erano molti messaggi incitanti alla propaganda islamica, così dicono gli inquirenti. Oh, Amir aveva 17 anni. Ora, questo ragazzo di 17 anni, scappato via molto qualche anno fa, che aveva 15 anni, con le traversie che immaginiamo per venire in Europa, perché voleva scappare dalle bombe, dalla morte certa che c'era in quel posto dove viveva lui, in Siria, è venuto qui, poi non si è trovato bene, ovviamente l'accoglienza non ne parliamo, è una parola che si usa e usano le persone cretine per mettersi a posto la coscienza, ma ovviamente non c'è, è vissuto male qui, ha pensato di voler tornare, perché perlomeno il paese da cui si è scappato, la Siria, c'ha degli amici, c'ha dei parenti, c'ha delle cose, e poteva rientrare lì per qualcosa. Immaginiamo le traversie di questo ragazzo: 15 anni scappa, si trova in Italia malamente accolto, anzi per niente accolto, quindi con difficoltà di vita, decide di tornare. Ovviamente siccome era venuto senza documenti, senza niente, si rimedia un documento falso e cerca di andare a prendere l'aereo per tornare. Lo fermano, nel telefonino c'era appunto, dicono gli inquirenti, pieno di propaganda islamica violenta, questo dicono. Nel frattempo aveva compiuto 17 anni, viene arrestato e buttato in carcere. Ora, il ragionamento, ne parla Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera il 6 gennaio, il giorno della Befana, perché appunto sembra un racconto. È stato condannato a 3 anni per un documento falso, niente, e buttato in carcere. Consideriamo che in Italia, ne abbiamo parlato mille volte, quindi tutti coloro che ci ascoltano lo sanno a memoria, più dei dirigenti magistrati o anche dirigenti del DAP, del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria di questo paese, e con le leggi cosiddette svuota carceri si è ribadito, si è affermato per legge che se una persona condannata a meno di 3 anni non dovrebbe fare il carcere, ma direttamente dal momento della condanna, cioè il tribunale che condanna, direttamente ti invia alle misure alternative, in affidamento, in prova ai servizi sociali oppure ai lavori socialmente utili, cose di questo tipo. Questo dice la legge. Però, come sappiamo, la legge non è uguale per tutti, che ne dicano i soloni di questa stupidaggine chiamata legalità. Non è uguale per tutti, perché ci vuole intanto un domicilio, sicuro e preciso, e lui Amir non aveva un domicilio. Insomma, 3 anni di carcerazione. Poi perché ne parla tanto? Perché si sono resi conto qualcuno che stavano facendo una carognata di quelle da far parlare, da far urlare la storia nei prossimi anni. E allora era minorenne, cioè 17 anni, quindi non poteva andare nelle carceri, è stato messo nelle carceri minori, e lì qualcuno meno stupido o comunque più intelligente della media dei carcerieri ha detto che, insomma, un ragazzo che ha subito già tante traversie, tenerlo in carcere ne sarebbe uscito fuori con la rabbia negli occhi, e quindi avrebbe potuto produrre veramente una persona che poi si riversava contro la società che lo stava tiranneggiando in maniera così violenta. E infatti qui parla Giovanni Bianconi, il Corriere della Sera, parla che si è cercato di fare in modo di cambiare, ma perché era in un carcere minorile è stato possibile, cioè di trasformare il carcere inteso come detenzione permanente in situazioni dove di lavoro, l'hanno messo in una cooperativa dove fa dei lavori, dove ha potuto fare dei lavori diversi, insomma, in una colonia agricola penale, dove in qualche modo ha sentito di meno l'aggressione violenta di questa società. Questo dice Giovanni Bianconi, e dicono altri così persone, dicono forse mostrare a questi ragazzi non il volto violento e sanguinario dello Stato nei loro confronti, ma forse un volto più diciamo che in qualche modo tende la mano, forse evitiamo questo problema. Il problema della trasformazione dei ragazzi pieni di problemi in uomini pieni di rabbia, perché questo sta succedendo. Ed è però questo insegnamento non ha portato ovviamente nessun cambiamento, se non quello riferito a questo ragazzo Amir, che poi dipende, perché le colonie agricole penali non è che sono dei paradisi terrestri, e tra l'altro quello che serve lì, la socializzazione, poiché le colonie agricole penali sono molto emarginate, forse quello che serviva era più un lavoro socialmente unico interno a una situazione metropolitana, cioè in mezzo alla gente, per sentire, per fare in modo che Amir pensasse che non tutta la società lo odia, perché questo è il meccanismo. Il meccanismo è proprio questo, no? Ora, poi qui gli articoli sono tanti, no? Ne ho sintetizzati una quindicina, tutti hanno scritto, le baggianate dette, per non dire le cazzate, scusate, ma ci vuole, le cazzate scritte sono spaventose. Comunque, hanno tirato fuori i numeri. Sono 373 le persone sotto osservazione, che con il termine proprio dei questurini vengono definite attenzionate, un termine allucinante, assurdo, veramente fa ribrezzo il termine, ma anche la pratica che questo termine nasconda porta con sé. 373 persone che vengono ritenute, in base ad osservazioni fatte a Bambera, vengono ritenute che possono essere in via di diventare terroristi, perché c'è un via, cioè che cosa come stanno lavorando questi? Allora, intanto questi 373 sono divisi in 172 che vengono monitorati quotidianamente, ossia le guardie e anche altre persone che girano nei reparti delle carceri, cercano di ascoltare quello che dicono questi, vedono come si comportano in cella con gli altri, vedono come si comportano nelle attività comuni, nei passeggi, eccetera, e cercano di rilevare elementi di radicalizzazione in questi soggetti. Come fanno non lo sa nessuno, perché è veramente un film a colori. Allora, 172 sono quelli veramente monitorati, attenzionati molto fortemente, quotidianamente monitorati, perché ogni momento c'è qualcuno che osserva quello che fai, questo ci dicono. Altri 64 sono attenzionati, cioè a un livello minore, si cerca di conoscere che cosa leggono, di che cosa parlano con i compagni di cella, e 137 segnalati, quindi 172, 64 e 137 a scendere fa il totale di 373 persone carcerati, ragazzi in carcere, che si pensa che siano sulla strada per poter diventare terroristi. A questo punto è scattata un'intelligenza che le nostre istituzioni hanno maiosa, che sono molto, hanno detto cerchiamo di sentire tutti gli esperti di carcere, sociologi, psicologi, preti, altre cose, per sentire, per sapere come mai e come avviene la radicalizzazione di un ragazzo che va in carcere perché ha fatto un piccolo furto, perché ha avuto, cioè, un documento falso o un piccolo spaccio, perché questi sono i reati con cui vanno in carcere questi, quindi 3-4 anni, poi escono e poi li ritrovano come autori di questi attentati. E allora hanno messo in moto gruppi di studio, commissioni, studiosi. Che cosa è venuto fuori? E qui c'è un meccanismo per cui i casi sono due, no? O ci diamo tutti delle martellate in testa, ma con un martello pesante di metallo, ovviamente, e quindi diciamo siamo incapaci di vivere e di considerare altri che vivano con noi, oppure significa che siamo veramente stupidi, ma tutti, non solo le istituzioni in primo luogo, ma a scendere anche tutti noi. Perché questi studiosi, queste commissioni, questi perfino preti, sacerdoti, quelli che girano per le carceri, educatori, cioè tutti studiosi o anche gente che pratica il carcere, hanno detto: guardate che il carcere produce un effetto di talmente produce sofferenza, e questa sofferenza poi si trasforma in rabbia. Questa rabbia può portare da una parte alla rabbia verso se stessi, e quindi l'alto numero dei suicidi e degli atti di autolesionismo, che sono in crescita e sono numerosissimi. Gli atti di autolesionismo sono quelli che crescono in maniera vorticosa, che a volte non diventano suicidi proprio perché il sovraffollamento delle carceri, quindi il fatto che i carcerati stanno vicini gomito a gomito, permette che il tentativo di suicidio di qualcuno viene scoperto, quindi si dà l'allarme e si impedisce quella morte. Ma gli atti di autolesionismo, che sono propedeutici, preparatori dell'eventuale suicidio, sono in crescita enormemente, ma anche i suicidi sono un numero molto alto. Ricordate che sono 20 volte superiori a quelli che la stessa percentuale di persone fa fuori. Allora, ecco, questi studiosi hanno detto: il carcere produce diversi effetti. Uno è quello che diciamo l'idea che dà alle persone messe in carcere per qualunque motivo, anche per pochissimi, per un reato piccolo, tutte le istituzioni della società, non solo lo Stato ma tutte le istituzioni, operano contro, cioè si sente la persona detenuta che ha tutte le istituzioni della società contro di lui, e quindi manifesta una rabbia nei confronti di questa parte istituzionale della società. Non solo, ma poiché non c'è nella percezione di chi sta in carcere, attenzione, questo è un fatto molto importante, nella percezione di chi sta recluso o reclusa non c'è la capacità di comprendere la differenza di atteggiamento tra le istituzioni contro di lui o contro di lei e il resto della società, perché il resto della società è silente, è silenziosa, non parla, non dice niente, non va sotto le carceri a dire siamo con voi, non siete soli, noi non vi condanniamo, non vi giudichiamo. Non c'è questo fatto, se non i soliti, pochi e preziosissimi e meravigliosi compagni e compagne, ma sono pochi, siamo pochissimi, troppi pochi, e il resto della società è silente. Quindi il carcerato fa questo ragionamento, dice: le istituzioni sono contro di me, e l'hanno dimostrato: violenza nell'arresto, violenza nel trattamento processuale e violenza quando ti sbattono in carcere, pesantissima. Non considerano niente i miei bisogni, le difficoltà che ti pigliano, ti piedi, sei un pacco, ti prendono e ti sbattono in carcere, ti trattano malissimo, il momento processuale è agghiacciante, a volte non funziona, spesso, quasi sempre, non funziona nemmeno la traduzione, cioè delle persone che non conoscono ovviamente l'italiano perché sono arrivati da poco, nel momento processuale non hanno nemmeno un ottimo traduttore nella fase processuale che gli racconta che cosa sta succedendo, per cui non capiscono niente, si sentono violentati, aggrediti e buttati in cella. Ma questa percezione è di tutti, italiani, non italiani, stranieri, vecchi, giovani, eccetera, è da sempre così. Quello che è cambiato nel corso degli anni era che invece il resto della società, quella non istituzionale, non lo Stato, non le istituzioni, non il Ministero, il DAP, le guardie, i secondini, ma la gente normale, a volte il carcerato ha percepito che erano, se non proprio complici, se non proprio alleati, perlomeno solidali, cioè non ti giudicavano, disposti a darti anche una mano, a venirti in qualche modo a sollevare da quella miseria in cui eri piombato. Ecco, e quando c'è stata questa cosa, e c'è stata in Italia per molto tempo, per molti periodi, questa doppia sensazione, sì, lo Stato e le istituzioni sono contro di me, però il resto della società no, in qualche modo sono amici, mi possono dare una mano e me la danno. Questo permette un diverso atteggiamento. Quando esci dal carcere odi le istituzioni perché ti hanno fatto del male, ma non la società. Adesso, da un bel po' di tempo a questa parte, le due cose si stanno agganciando. L'odio verso le istituzioni si trasmette all'odio verso la società nel suo complesso. Perché? Perché non si sentono parole chiare da parte dei settori sociali, del pezzo della società non istituzionale che dice una parola diversa, che non condanna, che non giudica, che non massacra, che dice siamo con voi, disposti a darvi una mano. Non c'è. Il silenzio è veramente allucinante in questo periodo, e quindi è facile che l'odio verso le istituzioni si trasferisce nell'odio verso la società. Questo è un meccanismo, non lo diciamo solo noi lo diciamo da sempre. Chi ascolta questa trasmissione sa che da 15 anni prima di noi anche altri hanno detto questa cosa qua. Adesso l'hanno detto, visto che si è creato questo problema, che molti ragazzi sono andati a finire in carcere per una stupidaggine, reati bagatellari, come si dicono, li dicono gli avvocati, no? Cioè stupidaggine, piccolo furto, appunto il documento falsificato, oppure piccolo spaccio, eccetera. Poi ne escono con una rabbia talmente tremenda. E allora gli studiosi messi a produrre un'idea hanno detto perché c'è questo meccanismo. Si sente violentato chi sta in carcere, pesantemente dalle istituzioni, e anche abbandonato dalla società, per cui matura un doppio odio verso le istituzioni e verso la società nel suo complesso, che lo reprime così. Quindi in qualche modo poi lo esprimerà questo odio. I modi sono tanti. Loro hanno, cioè questa analisi è stata chiesta a questi professori, a questi studiosi, per vedere come mai queste 373 persone, loro i numeri che danno sono questi, stanno diventando, non so come fanno a dire, comunque stanno, rischiano di diventare o stanno sul punto di diventare, di fare la scelta di fare attentati dentro di sé. Sicuramente però questa rabbia c'è, a volte appunto si riproduce verso se stessi. Ora, se sono 370 su 54.000, i numeri sono questi, 54.500 al 31 dicembre i presenti nelle carceri italiane, 373 sono quelli molto attenzionati o monitorati perché possono rischiare di diventare terroristi. Ma se noi mettiamo quei 1.500-2.000 che hanno prodotto in quest'anno, nell'anno 2016, atti di autolesionismo, quindi contro se stessi, sono quella parte di detenuti che quella rabbia accumulata la riversano contro se stessi, perché è facile il meccanismo. L'odio che tu hai per una società che ti ha rifiutato, delle istituzioni che ti hanno condannato e una società che ti rifiuta, la puoi svolgere contro di te, perché puoi pensare forse è colpa mia che non mi sono fatto accettare da questa società, e quindi cominci a praticare l'autolesionismo fino al suicidio. Considerate che tra 373, quelli appunto attenzionati come dicono loro, e i 2000 che producono atti di autolesionismo, cioè quelli che rivoltano questa rabbia contro se stessi o se stesse, il numero, come vedete, è più grave il fatto di coloro che si producono atti di autolesionismo fino al suicidio. Ora il punto che volevo raggiungere, detto questo, e queste cose noi le diciamo da noi, le realtà anticarcerarie o che criticano il carcere le diciamo da sempre, non solo noi, prima di noi, cioè ci sono dei libri meravigliosi della fine dell'Ottocento, dei primi del Novecento, della metà del Novecento, sempre libri che hanno raccontato questa devastazione e saccheggio della identità e della personalità della della persona reclusa che il carcere produce. È veramente la devastazione e saccheggio, il termine esatto per quello che produce il carcere. Il carcere produce realmente devastazione e saccheggio, devasta l'identità della persona, l'annulla, l'annienta, la sbriciola, e saccheggia quel poco di dignità che mantiene ogni persona su di sé e che lo fa stare a schiena dritta. E quindi devastazione e saccheggio è veramente il meccanismo che il carcere produce verso la persona reclusa. Bene, diciamo, queste cose adesso sono state dette da tutti, perché gli è stato chiesto come mai si entra in carcere per fare 2-3 anni per un piccolo furto e si esce terroristi, come dicono loro, e questi esperti hanno detto per questi motivi qua, perché il carcere fa male, produce sofferenza, talmente sofferenza, disprezzo, ti fa sentire odiato, ti fa sentire che sei finito in un buco da cui non uscirai più. L'unico modo per uscirne appunto è l'autolesionismo o il suicidio da una parte, oppure buttare tutto te stesso fino anche lì al suicidio contro la società che ti ha condannato, espulso, emarginato. Allora uno dovrebbe dire, visto che a questo punto con i loro esperti, con i loro strumenti, le persone di questo regime, di questo governo, di questo, le classi dirigenti hanno scoperto quello che noi diciamo, noi tutta l'area anticarceraria dice da un secolo e mezzo, dovrebbero dire, beh, a sto punto ci hanno detto questi esperti che il carcere fa male, non serve a niente, costa un sacco di soldi, fa male a chi viene buttato dentro, sicuramente terroristi o non terroristi, le persone buttate in carcere non ne escono migliorate, ne escono sempre peggiorate. Poi che facciano i terroristi o l'autolesionista o il suicidio, può anche succedere che non lo fanno, perché poi i sistemi di, come dire, di evitare queste scelte drammatiche ci sono, però ne esce sempre peggiorato. Cioè, uno strumento che serve a peggiorare le persone, domando io, a che cosa serve? Perché diciamo che serve? Perché lo teniamo in piedi e si ritiene che serva a questa società? Thank you. just to leave my baby. Cause she treat me so unkind. Dicevamo, allora, riprendendo il discorso a dove l'avevamo lasciato prima dell'intervallo musicale, nonostante appunto che gli esperti, i tecnici hanno detto guardate che il carcere diciamo, fa male, induce sofferenza talmente forte che appunto produce persone che quando escono sono peggiori di quando sono entrate, quindi a che cosa se... Allora, l'hanno detto questo perché si possa operare su queste persone attenzionate, non su tutti i 54.000 che stanno in carcere, attenzione, su quelli che secondo il ragionamento, le stime, le valutazioni del Ministero della Giustizia sono in via di radicalizzazione. Usiamo allora un altro modo, cioè cerchiamo appunto di portare queste persone in misura alta, appunto, nelle colonie penali, in posti meno violenti dove la loro rabbia venga attenuata. Non esasperiamola, perché non ci guadagniamo niente poi, perché alla fine questi devono uscire e quindi avremo persone che odiano la società e che possono fare delle cose contro, e quindi cominciano a fare una di quello che hanno provato. Siccome questa cosa qui è stata assegnata alla realtà islamica, no? Con un termine anche molto generico e molto confuso che non vuol dire niente, cioè hanno detto che questi terroristi sono stati così, è stato fatto azione di proselitismo sempre in carcere attraverso appunto dei predicatori islamici che predicano il jihadismo, la violenza, eccetera, e allora che hanno fatto, cercano appunto la scorciatoia che è un po' stupida. Qual è la cosa che dicono leggendo tutti questi articoli? Vogliono mettere in piedi una serie di imam. Gli imam sono quelli che guidano la preghiera, una sorta di punto di riferimento per il fedele musulmano, e quindi facciamo entrare queste persone moderate, già preparate precedentemente da alcuni istruttori, insomma, diciamo musulmani, però molto moderati, in modo che possano convincere i detenuti musulmani invece a fare scelte buone. Quindi sulla predicazione si opera, sulla predicazione, come se la predicazione facesse scomparire le cause materiali della sofferenza, della miseria, dell'emarginazione. E qui c'è questa cosa sulla stampa di questo, insieme al Lukoil. Lukoil è la Unione Comunità Islamiche, che dicono hanno proposto di avviare l'inserimento di più figure religiose in carcere, imam preparati appunto da Lukoil, moderati, che quindi fanno da contrasto alle idee, alla predicazione radicale che dicono che c'è nelle carceri. Questo è, quindi è una pecetta messa a un problema che invece appunto continua a produrre queste cose. E questo è per dire che non si vuol tener conto. Ora, la cosa ridicola, io veramente pensavo che qualche giornalista chiedesse, poi tutte interviste, no, chiedesse per esempio al ministro della giustizia o a Santi Consolo, che è il dirigente del DAP, del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, cioè quel dipartimento del Ministero della Giustizia che si occupa proprio di carcere, o altri funzionari del carcere. La cosa normale che una persona di buon senso avrebbe detto, dice: ma scusate, se i vostri esperti hanno detto che il carcere fa male, che il carcere produce talmente sofferenza che poi questa qui diventa rabbia contro chi te la produce, quindi contro le istituzioni e contro la società, perché quando tu vieni condannato in nome del popolo italiano, ricordiamoci, questa cosa rimane poi fissa in chi va in carcere. Poiché questa è la soluzione, quello che hanno detto gli esperti, perché non si cerca di metterla in discussione il carcere? Ora, ovviamente nella storia dell'umanità le sanzioni sono state tantissime, il carcere è una di queste sanzioni. Togliere la libertà, quindi togliere tutto in una realtà come quella attuale, moderna, dove la libertà dell'individuo è un po' il punto d'arrivo di un processo molto lungo, durato millenni, in cui appunto il soggetto umano si è affrancato dalle varie cose, il clan, la famiglia, la tribù, per assurgere, perlomeno il tentativo di associare ad una individualità che gli permettesse di avere un ruolo, di trovare insieme agli altri, ma con la sua specificità, un ruolo nella società. Questa era l'ambizione, il punto d'arrivo. Poi non c'è riuscito, però comunque dei passi avanti ci sono stati. Bene, in questo percorso è ovvio che la libertà è il punto, è il bene più prezioso che abbiamo tutti, giusto? In questa modernità. Può darsi che 2000 anni fa non era così, ma adesso è così. E quindi, perché togliere la libertà mentre invece si potrebbe operare su una infinità di sanzioni per punire, per sanzionare la violazione di legge? Possono essere quelle economiche, quelle amministrative, che so, se uno, infatti ce l'ha pure il codice della strada, se uno guida in maniera pericolosa per gli altri ti possono togliere la patente. Molto meglio quella che il carcere, no? Perché il carcere dopo 3 mesi esci e continui a guidare, poi continui a guidare da matto. Io invece ti tolgo la patente per alcuni anni, poi dopo ti faccio rifare la prova per vedere se sai guidare come dovresti essere. È molto più efficace. Eppure è stato fatto in tutte le società, c'è questo meccanismo nel codice stradale che è più intelligente di quello che ha il codice penale. Io non ti punisco per punirti, per farti male, ma ti tolgo la possibilità di continuare, cioè ti tolgo la patente. Addirittura c'è il sequestro della macchina per alcuni casi, no? Queste cose molto più, perché il codice stradale è più recente ed ha veramente una necessità di permettere che sulle strade ci fossero meno massacri. Vabbè, insomma, questo per dire, non si vuol tener conto della realtà che loro stessi, andando a scavare un po' nel ragionamento che gli esperti, chi conosce la realtà del carcere, affermava, è venuto fuori l'esatta identità del carcere, questo mostro che produce malessere, produce una sofferenza talmente alta che poi si innesca in rabbia verso se stessi, atti di autolesionismo, suicidio, oppure verso la società che sta condannato, perché appunto la società non dà un segnale diverso rispetto alle istituzioni in questa fase. Precedentemente, perché per esempio la realtà delle carceri nei decenni passati in Italia, in Francia, in Germania, in America, un po' ovunque, c'era molto più contatto tra l'interno del carcere e l'esterno del carcere. Questo produceva situazioni molto interessanti, molto belle, delle critiche attente della situazione carceraria anche per produrre delle modifiche funzionali. Questo è quanto è successo. Però allora dicono tutte queste cose che la questione riguarda tutta l'Europa, addirittura in Francia questi attenzionati sono 1500, in Germania 1000, in Belgio 500, quindi più che in Italia che sono 373. Ma però non si vuol tener conto di questo meccanismo. Il problema è la non volontà di affrontare criticamente questo sistema sanzionatorio che è la sottrazione di libertà, che vuol dire tutte quelle cose che abbiamo detto noi, ma oggi hanno detto pure questi esperti, cioè la devastazione, il saccheggio, la distruzione dell'identità, della personalità, cioè tutte queste cose qua, e che quindi dovrebbe essere forse ricalibrata, forse messa in discussione, forse andrebbe trovate alternative al carcere. E vabbè, poi l'altra cosa, vabbè, poi tante cose sono ridicole, per esempio il monitoraggio che dicono loro viene fatto quotidianamente di queste persone che sono fedeli musulmani, che stanno in cella e che parlano tra di loro, ovviamente tra di loro parleranno nella loro lingua, nel loro dialetto, come fa una guardia a capire quello che dicono? Quindi è tutto una finzione. Quando qui dice qualcuno, no, in alcune, io ho sentito che in cella dicono delle parole, diciamo, esaltano un attentato, esaltano un'altra cosa, parlano della jihad, come fai a capirlo? Io non credo che le guardie sappiano i dialetti delle persone recluse quando queste persone vengono da paesi molto lontani dall'Italia. Quindi considerate che quando sono stato in carcere io, che erano gli anni, i primi anni 80, non c'erano molti stranieri, c'erano però molte presenze regionali. Allora, per esempio, i calabresi, o anche i pugliesi, o anche i siciliani, o anche i trentini, o anche i veneti, cioè queste utilizzavano a volte per parlare da finestra a finestra, da cella a cella, senza essere compresi dalle guardie, dei dialetti molto stretti della loro provenienza, del loro paese, che non è che erano soltanto il calabrese, ma il calabrese di quel particolare borgo, e che chiaramente gli altri non lo capivano, era molto distante dall'italiano. Bene, si usava quello proprio per comunicare senza essere ascoltati dalle guardie. Immagina adesso con dei dialetti che provengono da posti e sicuramente le guardie non possono, quindi dire questo fatto che vengono monitorati e si sa di che cosa discutono è una solita stupidaggine, molto molto molto stupidaggine. Oh, che cosa dice l'intelligence? Perché poi chiaramente hanno anche chiesto all'intelligence, cioè ai servizi segreti, ai servizi di intelligence, appunto quelli che dovrebbero capire che cosa sta succedendo in questo mondo, in questo paese in particolare, e hanno chiesto all'intelligence qual è questo meccanismo, come mai si sta verificando questo dato. Bene, l'intelligence ha individuato i nomi e le storie di 26 predicatori, cioè questi imam, questi che guidano la preghiera, i più pericolosi. Alcuni di loro saranno liberi tra un anno. Che vuol dire? Vuol dire che hanno delle pene talmente piccole, delle condanne talmente piccole, 2 anni, 3 anni massimo, talmente irrisorie, perché ne hanno fatto niente, avranno rubato una mela, sono stati presi forse con qualche grammo di hashish in tasca o cose di questo tipo, perché no, per prendere 2-3 anni. E infatti dice, questi sono 26 predicatori pericolosi, alcuni dei quali saranno liberi tra un anno. Questo dice l'intelligence. Allora, poi bello, questa cosa sta sul giornale. Il giornale è quella cosa che non è un giornale, è una cosa orribile, che è orribile proprio, e che dice: attenzione, sono spacciatori, apprendisti terroristi, stupratori e rapinatori. Ma si sono stati condannati a 2-3 anni di carcere. Non è possibile che abbiano fatto questo insieme di reati. Vedete quando la stupidità prende il posto di quei neuroni che pure loro, questi qui del giornale, dovrebbero avere, almeno spero che l'abbiano. Certo, l'hanno abbastanza addormentati, però insomma prima o poi speriamo che rinsaviscano. Difficile da sperare, però può succedere. Insomma, questo per dire, questo dice l'intelligence. Poi ecco appunto, anche qui viene fuori un altro articolo che dice: da dentro le carceri fanno la propaganda all'ISIS, sempre nel dialetto loro, non ho capito come fanno a capirlo i buoni secondini. Vabbè, insomma, questo è il quadro. Sarebbe interessante, mi è venuta la voglia di prendere, siccome ne ho raccolte una ventina di articoli di questi ritenuti gli esperti del terrorismo, anche qui c'è una grossa finzione, una delle più stupide, che dimostra la stupidità qui, oltre che la cattiveria, perché sono persone che fanno del male agli altri, i carcerieri, tutti coloro che saltano il carcere, a volte non consapevolmente, ma fanno del male agli altri. Come quando da piccoletti, ricordate, prendevamo i gatti, a volte gli facevamo dei supplizi un po' brutti, ma eravamo molto piccoli e non sapevamo che quelle cose producevano sofferenza, o alle lucertole, ancora di più, no? Agli animaletti che catturavamo. Poi però crescendo si è capito dove passa il dolore, si è cercato di smettere di fare queste cose. Questi non sono bambini, sono molto cresciuti e fanno del male, molto male, e a volte non sapendo che stanno facendo del male. Bene, e però dicono che durante queste discussioni avvengono in cella, che i secondini dicono di aver capito di che cosa si parla, anche se credo che sia difficile, parlano anche della situazione internazionale. Quindi discorsi un po' complessi, che sicuramente, siccome svolgono nella lingua loro, a volte nel dialetto loro, è difficile che il secondino lo capisca, però dice: ma è probabile che parlino delle questioni internazionali. E la cosa di cui parlano, che è un dato reale, perché sono usciti i dati su tutti i giornali internazionali di economia, pure il Sole 24 Ore, ma pure l'Economist, pure in preparazione del World Economic Forum, una grande, come si dice, società di analisi statunitense, l'Oxfam ed altre, hanno dato questi dati. Dice che di queste cose ne discutono anche in cielo. I dati che hanno tirato fuori queste agenzie di osservazione di come sta andando il mondo è questo: dicono, nei 10 anni di crisi appena trascorsi, la differenza tra ricchi e poveri è raddoppiata, cioè il ventaglio tra ricchi e poveri si è molto allargato. La povertà è raddoppiata in Italia e tocca in Italia circa il 28,7% dei residenti, cioè quasi un terzo. Il 28 è molto vicino al 33, eh? 33 è un terzo, quindi poco meno del 30, il 28%, tanto, molto più di un quarto dei residenti in Italia toccano la soglia di povertà, italiani e stranieri. Gli indigenti sono quasi sempre giovani, perché non trovano lavoro. Un'altra agenzia dice, sempre di queste che fanno, a quasi 3 milioni di persone sono diventati poveri in questi 7 anni in più. Ecco, questo ci porta a dire, tanto a fare sempre il ragionamento sulle parole. È importante, lo sapete, cioè, da questa trasmissione cerchiamo sempre di stare molto attenti alle parole, perché nelle parole si nasconde il più grosso imbroglio che da sempre i poteri forti hanno esercitato sulla gente. La parola in questo caso è crisi. Allora, queste agenzie dicono: nei 10 anni di crisi la povertà è raddoppiata, il ventaglio tra ricchi e poveri si è molto allargato. Il titolo dice ricchi e poveri per diciamo sommariamente, ma loro entrano nel dettaglio. I poveri significano quelli che hanno un lavoro salariato, precario, non fisso, che lavorano alcuni periodi dell'anno, altri non lavorano, cioè quella che è la realtà, sappiamo, no? Quindi i super sfruttati li chiamiamo, insomma, noi li chiamiamo chiunque ha buon senso, e i ricchi, non i ricchi così, ma la ricchezza totale si è andata a accumulare in fasce più ridotte di ricchissimi, cioè i ricchi, i ricchissimi sono meno ma sempre più ricchi, i poveri sono di più e sempre più poveri, ecco, questo più o meno. Quindi la disuguaglianza cresce nel mondo, in particolare in questo caso riguardava anche l'Italia. Allora, i primi otto chiamati paperoni, cioè le persone più ricche nel mondo, nel pianeta Terra, in questo pianeta qui, quello che abitiamo noi, hanno la ricchezza pari 8 per le 8 persone più ricche di questo pianeta hanno la stessa quantità di ricchezza che ha 3,6 miliardi di persone, 3,6 miliardi, 3 miliardi e mezzo, di più di 3 miliardi e mezzo di persone della fascia bassa. Siamo circa 7 miliardi, 6 e qualcosa di persone, 3 miliardi e 6, quasi la metà, anzi la metà di queste persone, cioè la fascia, la coda di questi 7 miliardi, 3 miliardi e 6, hanno la quantità di ricchezza pari a quella di 8 persone più ricche del pianeta. Questo è un dato che noi siamo tutti tranquilli, credo che nessuno si arrabbia, nessuno che ascolta questa trasmissione o che ha letto questi dati, perché non è che sono di tutti, sono usciti sui giornali, è uscito di casa con una clava in mano, con una sedia in mano, pronto a dire spacco tutto perché è impossibile una cosa così. Tutti l'abbiamo digerita tranquillamente. Quella tranquillità che uccide però, perché certo noi diciamo vabbè, io basta che riesca a campare, metto insieme il pranzo con la cena, mi basta, è un tetto sulla testa. Ma quante persone possono mettere insieme il pranzo con la cena, visto che questi dati, cioè, capite, il 28, cioè più di un quarto dei residenti in Italia sono sotto la soglia di povertà, 3 milioni in più rispetto ai 7 anni. Ma la parola che volevamo mettere sotto processo, visto che parliamo di processi, è la parola crisi. Tutti dicono in questi 10 anni di crisi, cioè la parola crisi nell'accezione normale, comune, per esempio due persone si vogliono bene, quindi un rapporto tra due fidanzati, tra due innamorati, tra due o in una famiglia, entra in crisi quando questo bene non si trasmette più con facilità come era prima, cioè entra in crisi, cioè non si vogliono più bene queste persone, quindi cade proprio il rapporto, la coppia, il legame sentimentale, questo vuol dire crisi. Oppure crisi quando una persona sta male, prima stava in piena di salute, correva, faceva attività sportiva eccetera eccetera, poi probabilmente va in crisi, cioè non subentrano malattie, cioè. Usare questa stessa parola per una situazione economica in cui non è vero che tutti stiamo peggio di prima, non è vero che si è impoverito il pianeta, è vero semplicemente che quote di ricchezza sono state trasferite dalle parti, loro dicono più povere, non diciamo delle persone salariate che passano la vita lavorando perché è l'unico modo di campare, e si sono arricchite una piccola parte concentrando la ricchezza in mano loro. Questo è il quadro. Perché chiamare questa cosa crisi? È sbagliata, cioè la parola non rappresenta, non c'è una, le crisi le abbiamo lette nella storia, no? Quando c'erano le temporali, carestie, la siccità, a volte c'erano intere regioni che subivano o la siccità oppure alluvioni oppure il freddo, il caldo, qualunque cosa, subivano delle carestie, cioè impoverimento secco che faceva star male tutti, chi più chi meno, però insomma si impoveriva tutta la regione, quello voleva dire crisi. Qui non c'entra niente la crisi, la parola è sbagliata completamente e ancora si usa, e quello che fa rabbia a me, e credo non solo a me, è che questa parola la usano anche persone che hanno gli strumenti per capire che non è nessuna crisi, non c'entra niente, perché questa che, di cui parlano queste agenzie mondiali, che parlano che da 10 anni a questa parte c'è stato, loro dicono crisi, ma c'è stato un attacco dei poteri forti verso la povera gente, i salariati, i lavoratori, le lavoratrici, i disoccupati, a cui è stata tolta una ricchezza per prendere loro. Cioè, è stata una rapina colossale, non c'è nessuna crisi, c'è stata un'aggressione violenta, pazzesca, criminale, forse la più feroce mai stata. Ora, se voi vedete 30 secondi di storia, poi l'approfondite se volete. Allora, dopo la prima guerra mondiale, l'Europa è stata aggredita dai regimi fascisti, nazisti, no? Spagna, Portogallo, Italia, Germania, cioè. Perché questa cosa? Perché dovevano ributtare indietro le conquiste operaie fatte nell'immediato dopoguerra, dopo la prima guerra mondiale, e abbassare il costo del lavoro, impoverire questa gente, eccetera, eccetera, e arricchire i soliti. E hanno usato dei regimi dittatoriali, è l'unico modo che conoscevano per fare questa cosa. Ma se voi vedete i dati, l'impoverimento che allora hanno avuto le classi lavoratrici durante il nazismo in Germania, il fascismo in Italia, il franchismo in Spagna, eccetera, è inferiore a quello di oggi. Cioè l'impoverimento di oggi delle classi lavoratrici è stato più forte di quello praticato dal nazismo, dal fascismo, dal franchismo, eccetera. Che vuol dire? Che, quindi vedete perché non ha più senso, perché non gli serve più il nazismo, il fascismo, perché fanno le stesse cose, anzi pure più gravi, in maniera soft, rispettando la legalità. Questo è un dato molto importante, io spero che ci riflettiamo tutti con calma e poi ci torneremo a parlarne anche mercoledì prossimo, non il prossimo mercoledì ma fra 2 mercoledì, perché la trasmissione La Conta si vede fra 2 mercoledì. Bene, noi siamo arrivati, sono le 16 in punto adesso, c'è la trasmissione L'Ingorgo che è già giunta qui e si appresta a prendere i microfoni e quindi raccontarvi le delizie del trasporto a Roma.